Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. I'm pleased to announce that the next America's Cup will be held in June of 2017 in Bermuda. Since the very first race, only four nations have won what is often called the oldest trophy in international sport. Bermuda is now honored and proud to join that distinguished group. Una sfida agli dei di Olimpia, dello sport, ma anche a quelli del mare. Lo avete sentito nell'annuncio ufficiale. La Coppa America di Vela, la più antica competizione sportiva del mondo, nel 2017 si svolgerà alle isole Bermuda e a gareggiare saranno ancora dei catamarani. Scelta davvero particolare quella della sede ospitante, fatta dai detentori del trofeo, gli americani di Team Oracle, guidati dal multimiliardario Larry Ellison e coordinati dal neozelandese Russell Coutts, plurivincitore del prestigioso trofeo. Di questa nuova sfida ci chiedono oggi di ragionare gli dei dello sport e lo facciamo con un ospite che di mare, anche di Coppa America, davvero se ne intende. Andrea Mura, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Ciao a tutti. Andrea Mura, cagliaritano, classe 1964, velista dell'anno per il 2014, pluricampione italiano, vincitore di molte traversate oceaniche in solitario, a bordo del Moro di Venezia nella Coppa America 1992 e fresco reduce da una nuova sfida all'Oceano Atlantico, nell'ultima Route du Rhum da Saint-Malo in Francia a Guadalupe. Beh, Andrea, hai chiuso da vincitore tra i monoscafi, direi una bella soddisfazione, no? Sì, sì, molto contento, è andata bene, la barca era pronta, poche avarie, è stata una bellissima regata e poi la Route du Rhum è una regata veramente affascinante, si svolge nei 4 anni, da Saint-Malo a Guadalupe, bello partire dal freddo, arrivare al caldo, è organizzata proprio bene, veramente un bel evento. Quante miglia vi fate dall'Europa alla Guadalupe? Sono 3.650 in linea breve, poi chiaramente zigzagando per l'oceano a cercare il vento si superano le 4.000, io alla fine ho timonato da 14 a 16 ore al giorno, quindi non stancante, però bellissimo. Senti, incontri particolari, di solito c'è sempre qualche balenottera che vi fa compagnia. Ma sì, può capitare, di fatto ho incontrato solo delfini, cioè sincero non ho incontrato balene e tanti pesci volanti che saltavano a bordo. Per quella che è la tua esperienza, come valuti la scelta di disputare proprio a Bermuda, nel cuore dell'Atlantico, la Coppa America 2017? Quello che posso dire è che sono rimasto colpito insomma dalla scelta di Bermuda, perché è un posto abbastanza fuori dal mondo, sicuramente bellissimo, ma meta di pochi fortunati. Una Coppa lì sarà sicuramente affascinante, creerà comunque non poche difficoltà, perché è un'isola piccola, non facile da raggiungere. Sicuramente bella, spero che abbia grande successo, perché comunque si parla sempre di vela e sarebbe sempre una grande promozione per la vela. Immagino, Andrea, che al solo sentire parlare di Coppa America il tuo cuore ritorni all'incredibile avventura vissuta nel 92 a San Diego a bordo del Moro di Venezia. Ma è stata un'esperienza grandiosa quella, anche perché Raul Gardini aveva acquistato a suo tempo anche Telemonte Carlo, vedendo lungo in avanti, e quindi mi acquisto anche la televisione, così possiamo inviare a tutto il mondo le immagini. È stata una cosa molto geniale. Bellissimo posto, San Diego, bellissima coppa, è stato l'inizio di una nuova era di barche, quindi un team grandioso, avevamo veramente budget illimitato, è stato un evento pazzesco, poi abbiamo vinto la Louis Vuitton Cup, il titolo mondiale, è stata tra l'altro una cosa molto bella che si era regatato tutto in flotta, eravamo tante barche ed è stato emozionante vedere tanti Coppa America in flotta partire insieme e fare un campionato del mondo. E allora, Andrea Mura, riviviamola insieme quell'avventura che fece perdere il sonno a milioni di italiani incollati la notte davanti alla TV. Prima, nel 1983, c'era stato il sorprendente esordio di Azzurra, poi nel 2000 e ancora oggi sarebbe stata Luna Rossa ad accarezzare il sogno di conquistarla, quella coppa. Ma nel 1992, nelle calde acque di San Diego, in Florida, è il Moro di Venezia, la prima barca italiana e non appartenente quindi al Commonwealth britannico, a sfiorare il più prestigioso trofeo velico del mondo. Voluta da Raul Gardini, sostenuta dall'impegno economico e tecnologico della Montedison, quella del Moro fu la terza partecipazione italiana alla Coppa, dopo Azzurra nell'83, nell'87 e Italia sempre nell'87. Sotto la guida del timoniere americano Paul Caillard, dopo essersi qualificato come terzo al termine del round robin, il Moro elimina in semifinale i francesi dell'EDFI Français e i giapponesi di Nippon Challenge. In finale della Louis Vuitton Cup, il trofeo che seleziona lo sfidante ufficiale per la conquista della Coppa, il Moro di Venezia affronta i temibili neozelandesi di New Zealand Challenge, timonati proprio da Russell Coutts. Tra colpi di scena e polemiche per lo scorretto uso del bon presso da parte dei Kiwi, il 30 aprile del 92 si disputava la regata decisiva, con gli italiani in vantaggio per 4 vittorie a 3, dopo essere stati sotto. L'Italia accende la TV di notte e segue su Tele Monte Carlo il commento di Cino Ricci, storico condottiero della campagna di Azzurra 9 anni prima, coadiuvato dal giornalista Paolo Ciccinelli. Cino, un giudizio sulla manovra? La manovra è stata perfetta, ci hanno messo un po' per mettere a posto il tangone, però lo spinacher era gonfio, è più di un minuto il vantaggio. Arrivano la stessa manovra i neozelandesi, più veloce la nostra manovra. A un certo punto arriva in diretta una telefonata davvero speciale. Ecco, strambano ancora e Caillard sta molto attento a non cadere nella rete che gli sta attendendo Coutts. Cino, adesso ti passiamo una telefonata di una persona che ti vuol parlare. Si chiama Gianni Agnelli, che ci ha chiamato per salutarti. Buonasera, avvocato. Cino? Sono io, sono qua, avvocato. Come va Cino? La sento di buon umore. Andiamo come i treni, ha visto? Decisamente emozionato il velista, mentre l'avvocato lo riporta subito alla concretezza della regata in corso. Ha visto la regata, sta guardando la regata. È naturale che sto guardando la regata. È la prima volta che sono entrati dei concorrenti che non erano l'Inghilterra o facevano parte del Commonwealth. Ecco, io vorrei che lei dicesse proprio queste cose, cioè noi ce la siamo fatta praticamente un po' da soli questa Coppa America. Oggi invece c'è la tecnologia multinazionale, ci sono i cervelli che possono provenire da tutte le parti del mondo. Cosa vuole dire secondo lei questa Coppa America? È rimasta quella di allora o è cambiata? Secondo me vuol dire che Montedison ci ha messo un enorme impegno e oltre a metterci un enorme impegno lo ha fatto bene e credo che ha fatto anche un'enorme pubblicità e a se stessa e al paese a cui appartiene. Di lì a poco lo scandalo Mani Pulite e Tangentopoli travolgeranno l'impero Montedison. Raul Gardini si suiciderà poco più di un anno dopo. Nubi ancora lontane quella sera, mentre Agnelli ipotizza la conquista dell'America's Cup e il suo sbarco nel Mediterraneo. Parecchie volte ho visto gli uomini, l'equipaggio, la barca in preparazione, ne conosco i meriti, so quale fatica e quale lavoro abbia fatto Raul Gardini e spero che possa la prossima volta la Coppa America venire nel Mediterraneo, sceglierete voi il posto. Mentre il Moro vola verso il traguardo, Cino Ricci e Gianni Agnelli scherzano proprio sul famigerato e irregolare bon presso dei neozelandesi. Ieri lei mi ha detto che avevamo il 65-1 della possibile passaggio alla finale, adesso che sta vedendo la regata, cosa mi dice? Io direi 80. 80? Sì. Sempre pessimista lei. No, avete comunque caro Cino, occhio al buon presso, eh? Sì, sì, lo teniamo d'occhio. Va bene, spero che venga presto, facciamo un giorno in mare così mi racconta tutto. Va bene. Grazie, si diverta, Grazie. Arrivederci. Il 5-3 finale sancisce la vittoria del Moro di Venezia, ma la Coppa sfuggirà nella sfida con gli americani di America Cube, che conserveranno il trofeo con un netto successo per 4-1 nella finalissima. Tempo dopo, ripensando a quella sfida straordinaria e quasi vincente, Paul Caillard immaginerà così il futuro della stessa America's Cup. La Coppa America non cambierei molto, è sempre una lotta dove il denaro fa differenza. È sempre una regata di prestigio, ha la sua mystique, la sua carattere che è diverso e ci vuole, però se togli tutto quello non è più la Coppa America. Andrea Mura, eccoci ancora insieme. Abbiamo rivissuto le emozioni della sfida del Moro di Venezia alla Coppa America del 1992. In quei giorni l'Italia conobbe proprio il baffuto Caillard, che divenne popolarissimo. Ecco, che tipo è a bordo durante le regate? Bah, io ci ho navigato gomito a gomito per 2000 ore circa, ero sempre a fianco a lui, quindi riuscivo dal suo respiro, riuscivo a capire cosa pensava, puoi immaginare, abbiamo avuto le nostre difficoltà iniziali anche di comunicazione, di pensiero, perché siamo proprio due culture diverse, però alla fine ci si capiva, lui parlava in inglese e noi parlavamo in italiano ed entrambi ci capivamo, impari comunque a risolvere i problemi, la metodologia con cui risolvere i problemi, e questo anche ti trasmette un team di quel tipo, un'esperienza qualsiasi di quel tipo, perché quando lo finisci, insomma, qualsiasi cosa ti capiti, sai in qualche modo come affrontarla. Tanti ricordi, Andrea, ma anche tanti progetti futuri per te. Se non sbaglio, obiettivo è la Vendée Globe 2016, giusto? Di cosa si tratta? Possiamo dire l'Everest della vela, quindi la sfida appassionati di mare e di vela, e i velisti è comunque la regata più ambita, è fortuna di pochi poterci partecipare perché richiede grandi budget e quindi risorse difficili da reperire. E il nostro progetto funziona così: la barca che adesso è in costruzione verrà varata a luglio del prossimo anno e poi parteciperemo alla Transavia Vabre qualche mese dopo, a novembre, che va dalla Francia al Brasile, quindi come preparazione. Poi l'anno dopo c'è il Vendée Globe, poi l'anno dopo ancora la Jacques Vabre di nuovo, e l'anno dopo ancora nel 2018 la Route du Rhum e poi la Bassona World Race. Quindi diciamo una regata transoceanica all'anno all'incirca, tutto fatto in funzione di questo Vendée Globe, che è appunto l'Everest della vela, che parte a novembre 2016. Andrea Mura, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, è stato un onore. Complimenti per quello che fate e continuate a promuovere lo sport, che è la disciplina più importante della vita. Olimpia, miti e verità dello sport. Quanto è alto il Nanga Parbat? Abbastanza. E volete raggiungere la vetta? Beh, certo. Il Nanga! E ora dobbiamo solo scalarlo. Essere i primi sulla vetta. Nanga Parbat, la montagna del destino. Questo è il film del 2010 che racconta la conquista di uno dei più temuti 8000 della Terra, per l'esattezza 8126 metri, in Pakistan, da parte dei fratelli Reinhold e Gunther Messner, che risalirono la parete Rupal della montagna senza ossigeno in stile alpino, cioè senza l'ausilio di corde fisse e portatori. Nella discesa dal versante opposto, il Diamir, Gunther morì travolto da una slavina. Tornate indietro! Possiamo arrivare fino in vetta. Ebbene, la vetta del Nanga Parbat, così come quella del K2, rimane però ancora inviolata in inverno. Una sfida che si rinnova anche quest'anno grazie a un alpinista italiano, amico di Radio 24, che tenta per il terzo anno consecutivo la conquista del Nanga Parbat proprio in inverno. Lo abbiamo incontrato in Campidoglio, a Roma, dove lui, nativo di Sezze, vicino Latina, ha presentato la sua nuova spedizione. Daniele Nardi, benvenuto oggi a Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario e benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori. Allora Daniele, per la terza volta torni quest'anno a sfidare il Nanga Parbat. Quanto peseranno le esperienze fatte nei due anni scorsi? Le esperienze del passato saranno fondamentali. Come ho detto più volte, non c'è una storia dell'alpinismo che parla di prima invernale in stile alpino su una via nuova. Quindi avevo pochi documenti su dove studiare, come affrontare una cosa del genere. Certo è che le esperienze comunque dei polacchi, di Simone Moro e di altri che hanno affrontato queste avventure incredibili in inverno sono state importanti, ma quello che andiamo a fare è una cosa un po' più particolare. Quindi averlo sperimentato in prima persona nei due tentativi iniziali è stato fondamentale per raccogliere dati e capire fino a che punto anche io personalmente potessi spingermi sulla montagna. Allora, riviviamole proprio insieme queste storie di questi assalti, di questi confronti, di questi dialoghi con quella che è definita la montagna mangia uomini e che, lo ricordiamo insieme al K2, è l'unico 8000 al mondo ancora inviolato in inverno. normalmente non ci accorgiamo neanche che noi siamo mortali. Un alpinista sul Nanga Parbat d'inverno, col freddo e con la bufera forse che viene, in ogni secondo, in ogni cellula del corpo sente che è mortale. Niente più delle parole di Reinhold Messner possono spiegare cosa vuol dire il Nanga Parbat per un alpinista. Il primo a provarci fu Albert Frederick Mammery, pensate, nel 1895, provando a risalire per quello sperone che oggi porta il suo nome e dove trovò la morte. Nel 1953 fu Hermann Bull a conquistarne la vetta in solitaria in estate. Nel 1970 la drammatica spedizione dei fratelli Messner con la morte di Gunther dopo la conquista della vetta. È proprio Reinhold a darci ancora l'idea della pericolosità della scalata, specialmente in inverno, e a descriverci quali sono le vie per arrivare in cima. Sul Nanga Parbat hanno trovato tardi, solo nel 62, una via non molto pericolosa. La via della prima salita di Bull è molto pericolosa, specialmente all'inizio, poi è molto lunga. La parete sud è molto alta e anche molto difficile, mentre la via di Kinshofer, trovata nel 62 da Kinshofer, per questo si chiama via Kinshofer, è una via accettabile. E il Nanga Parbat, storicamente, facendo i calcoli, è meno pericoloso della Annapurna. Chiaro, se uno va sud inverno col freddo che c'è sul Nanga Parbat, perché siamo molto a nord, il Nepal fa meno freddo, l'Himalaya centrale, significa Mount Everest, Makalu, Kanchenjunga, sentono meno il freddo perché siamo più a sud e poi i venti sono meno forti, mentre sul Nanga Parbat, sul K2, sul Karakoram, che è più ad est del Nanga Parbat, lì d'inverno veramente c'è il pericolo del freddo e del vento. Sembra di vederli ancora lassù mentre si arrampicano lungo il versante Rupal, Reinhold e Gunther. Quella via e la drammatica discesa lungo il versante di Amir segneranno e divideranno per sempre i loro destini. Chiaro che la via sul versante Rupal è stata una via molto importante per la generazione e per me, perché si tratta della via più alta del mondo, più lunga. Sempre se si parla di parete, non è la più lunga in piano, ma in verticale. È la più alta parete del mondo e per un decennio i più bravi alpinisti austriaci e tedeschi hanno tentato di salire quella parete e non sono riusciti. Ed è chiaro che un ragazzo giovane dice: ma io vado e la faccio, e l'abbiamo fatta. Così è diventata la via più importante della mia vita, però è anche la fine di una via che era la fine della mia infanzia, perché sulla cima eravamo intrappolati e dovevamo scendere da un altro versante e la morte era la cosa più ovvia. Per fortuna io mi sono salvato, il fratello è morto, così diventa poi la più grande tragedia della mia vita. Nello stesso momento il massimo delle nostre possibilità che abbiamo espresso con questa salita, però poi il massimo di tragedia sofferta dopo. In questi ultimi due inverni diverse sono state le spedizioni che hanno provato invano a conquistare la vetta della montagna. Lo scorso anno sul versante di Amir proprio Daniele Nardi tentò in solitaria, ma meteo e ghiaccio ebbero la meglio. La neve che avremmo dovuto trovare sulla montagna è stata portata via dal vento, quindi ne è uscito fuori, diciamo, questo ghiaccio molto vivo e duro che ha reso particolarmente complicato, diciamo, la scalata. Più di qualche amico mi ha fatto una battuta, no? Dicendo: ma come, Daniele, vai in inverno, vai su una montagna di 8000 metri e pretendi di non trovare il ghiaccio? Ma lì non è questione di trovare il ghiaccio, è che è un ghiaccio veramente molto difficile da scalare e, diciamo, purtroppo la trasformazione della neve che generalmente fa l'inverno dovrebbe permettere una salita più agevole, soprattutto quando si decide di andare da soli. Questo non è avvenuto e quindi ha complicato in maniera decisiva, diciamo, le condizioni di scalata, soprattutto sullo sperone Mammery. Altro versante, il Rupal, ma uguale difficoltà per Simone Moro e David Göttler, suo compagno di cordata. il numero di volte che siamo andati sulla montagna l'ho persino dimenticato. Penso che abbiamo fatto almeno 20 o 30 mila metri di dislivello tra su e giù la montagna, e il dislivello che abbiamo salito fino al punto più alto che è stato raggiunto da David è pari alla differenza tra il campo base dell'Everest e la vetta dell'Everest, che è la montagna più alta del pianeta. Ecco, questo dislivello che permette di arrivare in cima all'Everest, al Nanga Parbat ti permette di arrivare a 7200 metri, e quindi la dice lunga su quanto grande sia questa montagna. La vista dall'altra parte, cioè sul versante di Amir, nella quale avremmo dovuto attraversare, poi ha evidenziato che c'erano delle condizioni particolarmente difficili e il percorso è lungo, ci vorrebbero ancora altri due giorni, e non c'era la finestra di bel tempo necessaria per riuscire a rimanere ancora altri due giorni sulla montagna e bivaccare. Quindi abbiamo capito che la via Shell, che è questa via che noi abbiamo scelto, quest'anno era in condizioni particolarmente difficili, come tutta la montagna d'altronde, ma che è una via probabilmente più estiva che non invernale. Questa è l'opinione che ci stiamo facendo a bocce ferme adesso. Ecco Daniele, abbiamo vissuto rivissuto insieme queste grandi emozioni, queste sfide eccezionali e drammatiche anche in molti casi. Ecco, quest'anno si torna su quelle pendici, però con una squadra diversa, più ricca, più composita. Siete in realtà un gruppo d'alpinisti e tu sei il capo spedizione, no? Beh, sicuramente una responsabilità maggiore quest'anno anche nei confronti dei compagni di cordata che hanno scelto di unirsi un'altra volta alla mia corda e di salire. Nanga Parbat in inverno è stato l'anno scorso in solitaria per me e poi due anni fa con Elisabeth Revol. Quest'anno si aggiungono Roberto Delle Monache dall'Abruzzo, che è un amico alpinista con cui ho fatto una scalata incredibile in India qualche anno fa, e poi Tomek Makievic, che conosco di professione alpinista ma non ho mai incontrato dal vivo. Ci siamo trovati subito simpatici, conosco il suo stile, è uno stile che si sposa benissimo con il nostro, e quindi sono certo che poi al campo base riusciremo a creare quella sinergia, quella squadra per poter scalare il Nanga Parbat. È bello sapere che questa volta non sarò solo, potrò contare sugli altri, ma anche la responsabilità di dover dare le indicazioni più importanti nei momenti salienti. E sappiamo che il Nanga Parbat non scherza, quindi è una responsabilità che essendo ben pesante nel mio zainetto. Daniele Nardi, in bocca al lupo e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te Dario, e ci vediamo su danielenardi.org, il sito che porterà gli aggiornamenti della spedizione, quindi a prestissimo. Staremo a vedere allora cosa accadrà quest'anno sulle pendici del Nanga Parbat. Per l'appuntamento odierno di Olimpia è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast attraverso il nostro sito radio24.it e dialogare con noi scrivendoci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti.